Buongiorno, ci siamo? Mentre pregavamo per i bambini e anche gli adolescenti e tutti i ragazzi che stanno per iniziare la scuola, ho sentito questo, che per tanto tempo la scuola è stato quel territorio che ha conquistato i nostri figli, i tuoi figli. Da ora in avanti i tuoi figli saranno quelli che conquisteranno il territorio della scuola. Non sarà più la scuola con le sue cose belle, con le sue cose brutte a determinare il loro futuro, ma saranno loro a determinare quello che accadrà in quelle scuole, perché Gesù è con loro. Quindi confessatelo sui vostri figli. Confessatelo alla vigilia di una stagione gloriosa per Dio. La volta scorsa ci siamo lasciati con questa immagine. Abbiamo visto che a un certo punto Simone, detto Pietro, ha condiviso su Facebook la foto di Cornelio, della corte italica, che si era battezzato. Vi ricordate per quanti c'erano? Questo ha fatto scalpore fino a Gerusalemme, si sono rivoltati dalle tombe tutti i profeti e tutti quelli che non avrebbero voluto che gli italiani, in rappresentanza dell'intera umanità, di ogni popolo, straniero, peccatore, gentile, impuro, schifoso, avevano chiamato. E la salvezza e la redenzione di Cristo Gesù e in Cristo Gesù era entrata nella casa di Cornelio. Vi ricordate? Quelli che erano stati considerati impuri e contaminati fino a quel momento, ora avevano avuto accesso a questa grazia e a questa salvezza in Cristo Gesù anche per loro. Quella elezione e quella scelta, la scelta e l'elezione che Dio aveva riservato ad Abramo per fede e che Abramo aveva tramandato di generazione in generazione al popolo di Israele, ora era stata estesa ufficialmente alla fede di ogni uomo pio e timorato di Dio come Cornelio, che avrebbe riposto la sua fiducia nella redenzione e nella salvezza di Cristo Gesù. Questo è qualcosa di straordinario, perché questo ci fa essere qui oggi. Altrimenti noi non saremmo potuti essere qui. Noi saremmo rimasti con Giove, Giunone, Saturno e tutta la razza di quelli che i romani credevano quando Gesù è entrato in casa di Cornelio. Questa è la verità. Di questo stiamo parlando. Il mondo non è stato più lo stesso, perché Gesù era morto e non era morto solo per il popolo di Israele, ma era morto per il mondo intero. E Dio lo sapeva, lo aveva detto ad Abramo, perché ha detto in te saranno benedette tutte le famiglie della terra, ma noi non ci credevamo. E ci è voluta la fedeltà di Pietro, la maestrabilità di Pietro, la dedicazione di Pietro allo Spirito Santo e a quel piano di salvezza che Dio aveva affidato a lui, per arrivare a noi oggi, per entrare in quella casa ed essere strumento di salvezza per le nostre vite. È grandioso! E questa mattina continuiamo la nostra avventura nel capitolo 12 degli Atti degli Apostoli, perché noi vogliamo imparare e vogliamo capire come loro hanno fatto per fare noi a nostra volta. E il titolo del messaggio di questa mattina è «Noi corriamo per conquistare nuovi territori». La scuola non l'abbiamo mai conquistata? I nostri figli hanno sempre avuto, sono tornati a casa piangendo perché le maestre li rimproveravano, bullizzati dai bambini, non sarà più così. La scuola sarà il nostro territorio di conquista quest'anno, perché noi corriamo per conquistare nuovi territori. E prima di leggere e di immergerci nell'avventura in cui Pietro si ritroverà nel capitolo 12 degli Atti, io vorrei che noi ci alzassimo in piedi e presentassimo noi stessi davanti a Dio. Quando apriamo la sua parola è qualcosa di sacro ed è qualcosa di santo ed è importante per noi presentarci davanti a Lui. Vogliamo farlo insieme? Preghiamo? Signore Gesù, grazie. Grazie perché Tu sei la parola, grazie perché Tu eri dal principio, grazie perché la parola che Tu sei è diventata carne ed ha abitato in mezzo a noi. Grazie Signore Gesù perché hai lasciato a noi una testimonianza scritta della Tua parola. Grazie perché la Tua parola è radicale e ci chiama ad una vita radicale. E noi confessiamo questa mattina che ogni parola che andremo a leggere dalla Tua parola possa radicarsi nel nostro cuore, possa abilitarci a conquistare quei nuovi territori che sono davanti a noi. possa sradicare ogni cosa che ci separa da te, possa sradicare tutto quello che ci impedisce di correre quella corsa che tu hai messo davanti a noi e possa radicare il tuo seme della tua parola che possa crescere rigoglioso in noi. Ti lodiamo Gesù e ci arrendiamo a te prima di andare ad aprire la tua parola, confessando che possa essere il refrigerio per noi. Nel tuo nome santo Gesù. Amen. Amen. Pronti? Ci siamo? Capitolo 12, dal verso 1. In quel periodo il re Erode cominciò a maltrattare alcuni della chiesa e fece uccidere di spada Giacomo, fratello di Giovanni. Questo Giacomo che qui viene ucciso di spada è il Giacomo apostolo di Gesù Cristo, Pietro, Giacomo, Giovanni sulla barca, vi ricordate? È quel Giacomo, fratello di Giovanni, che aveva visto la trasfigurazione di Gesù sul monte, che era stato con lui molto vicino, una morte molto grave che aveva toccato profondamente la Chiesa. Venendo dal verso 3, vedendo che ciò era gradito ai giudei, continuò Erode e fece arrestare anche Pietro. Erano i giorni degli azimi e dopo averlo fatto arrestare lo mise in prigione affidandolo alla custodia di 4 picchetti di 4 soldati ciascuno, perché voleva farlo comparire davanti al popolo dopo la Pasqua. Pietro dunque era custodito nella prigione. Un attimo, pausa. Il capitolo 12, dopo una gloriosa conclusione del capitolo 11, dopo che il Vangelo era arrivato e stava arrivando all'estremità della terra, si apre devastatamente con Giacomo morto, Pietro in prigione ed Erode trionfante. Così si apre il nostro capitolo, io direi quasi una tragedia, non greca, ma non lo so, ebraica, va bene? Una tragedia. Importante che fissiamo l'apertura del Vangelo, perché questi 3 concetti li ritroveremo alla fine e ritroveremo alla fine che cosa accade. Proseguiamo. Pietro dunque era custodito nella prigione, ma fervide preghiere a Dio erano fatte per lui dalla Chiesa. Nella notte che precedeva il giorno in cui Erode voleva farlo comparire, Pietro stava dormendo in mezzo a 2 soldati, legato con 2 catene, e sentinelle davanti alla porta custodivano il carcere. Ed ecco, un angelo del Signore sopraggiunse e una luce risplendette nella cella. L'angelo, battendo il fianco a Pietro, lo svegliò dicendo: «Alzati presto!» E le catene gli caddero dalle mani. L'angelo disse: «Vestiti e mettiti i sandali!» E Pietro fece così. E poi gli disse ancora: «Mettiti il mantello e seguimi!» Ed egli uscito lo seguiva, non sapendo che era realtà ciò che stava succedendo per opera dell'angelo. Credeva infatti di avere una visione. Com'ebbero oltrepassato la prima e la seconda guardia, giunsero alla porta di ferro che immette in città, la quale si aprì da sé davanti a loro. Uscirono e si inoltrarono per una strada, e all'improvviso l'angelo si allontanò da lui. Pietro, rientrato in sé, disse: «Ora di sicuro so che il Signore ha mandato il suo angelo e mi ha liberato dalla mano di Erode e da tutto ciò che si attendeva il popolo dei giudei, perché lo volevano uccidere». Pietro dunque, consapevole della situazione, andò a casa di Maria, madre di Giovanni, detto anche Marco, dove molti fratelli erano riuniti in preghiera. Dopo aver bussato alla porta d'ingresso, una serva di nome Erode si avvicinò per vedere e per sentire chi era. Riconosciuta la voce di Pietro, per la gioia non aprì la porta, ma corse dentro ad annunziare che Pietro stava davanti alla porta. E quelli le dissero: «Tu sei pazza!» Ma ella insisteva che la cosa stava così, ed essi dicevano: «È il suo angelo, non può essere Pietro!» Pietro intanto continuava a bussare, e quando ebbero aperto, lo videro e rimasero stupiti. Ma egli con la mano fece loro cenno di tacere e raccontò in che modo il Signore lo aveva fatto uscire dal carcere e poi disse: «Fate sapere queste cose a Giacomo e ai fratelli». Ora, questo Giacomo non è quello di prima, è un altro Giacomo, è il fratello del Signore Gesù, che si era convertito dopo la resurrezione di Gesù, che era, si era aggregato ai discepoli ed era parte della Chiesa di Gerusalemme e avrebbe preso la responsabilità di tutta la Chiesa in Gerusalemme una volta che Pietro sarebbe andato via da, da Gerusalemme. Un'altra persona molto importante che ritroveremo più tardi. Quindi uscì Pietro e se ne andò in un altro luogo. Fattosi giorno, i soldati furono molto agitati, perché non sapevano che cosa fosse avvenuto di Pietro. Erode lo fece cercare e, non avendolo trovato, processò le guardie e comandò che fossero condotte al supplizio. Poi scese dalla Giudea e soggiornò a Cesarea. Erode era fortemente irritato contro i Tiri e i Sidoni, cioè questo non aveva pace contro i cristiani, non poteva fare l'uovo. Ma essi, di comune accordo, si presentarono a lui. E guadagnato il favore di Blasto, ciambellano del re, chiesero pace perché il loro paese riceveva i viveri dal paese del re. Nel giorno fissato, Erode indossò l'abito regale e, sedutosi sul trono, tenne loro un pubblico discorso. E il popolo lo acclamava: «Voce di un Dio e non di un uomo!» In quell'istante un angelo del Signore lo colpì, perché non aveva dato gloria a Dio. E roso dai vermi morì. Intanto la parola di Dio progrediva e si diffondeva sempre di più. Fino qui. Il pastore domenica scorsa ci ha incoraggiato a conquistare nuovi territori. Ci ha incoraggiato attraverso le parole di Pietro, guarda caso, che lui scrive nella sua lettera, a crescere mettendoci da parte nostra ogni impegno, aggiungendo e impegnandoci sempre di più. Questa mattina vedremo tre obiettivi che possiamo fare nostri da questa storia e imparare a correre quella corsa impegnandoci come il pastore ci ha suggerito. Ci piace? Vogliamo farlo? Obiettivo numero uno. Noi corriamo per conquistare nuovi territori impegnandoci ad avvicinarci a Dio. Impegnandoci ad avvicinarci a Dio. La chiesa di questo capitolo non era rimasta a piangersi addosso perché Giacomo era stato ucciso. Non era lì che faceva cordoglio e disperata perché Pietro era in prigione e il giorno dopo avrebbe fatto la stessa fine di Giacomo e nessuno sapeva quello che stava per accadere e che noi abbiamo letto. La chiesa non era neanche lì indignata per questo Erode, no? Questo Erode, ma ci vuole proprio male, ma quanto fa schifo, vogliamo farlo morire, che brutto, quanto siamo peccati, se non c'era Erode avremmo avuto una vita migliore. No, la Chiesa ha scelto di avvicinarsi a Dio. L'abbiamo letto, fervide preghiere a Dio erano fatte a lui dalla Chiesa. Fervide preghiere, aveva deciso e aveva scelto che il suo avvicinarsi a Dio sapeva che avrebbe portato Dio ad avvicinarsi a loro e a Pietro. E Giacomo, quello che sarà il capo della Chiesa, lo scrive nella sua lettera, al verso 8 del capitolo 4, avvicinatevi a Dio ed Egli si avvicinerà a voi. Pulite le vostre mani, o peccatori, purificate i vostri cuori, o doppi d'animo. Perché è fondamentale avvicinarci a Dio sempre e comunque? Perché quando noi ci avviciniamo a Dio ci rendiamo conto che Lui è più vicino di quello che pensiamo e di quello che crediamo. Perché è importante avvicinarci a Dio, ci suggerisce Giacomo? Per purificare i nostri cuori e lavare le nostre mani. E cosa fa invece il diavolo? Ci fa stare lontani da Dio, così rimaniamo con le mani sporche e con il cuore colpevole. Impegnati ad avvicinarti a Dio. Non so quanto posso enfatizzare questo, però il significato della parola che noi oggi traduciamo come preghiera, nel testo originale e nella tradizione ebraica, significava autovalutazione. Cioè, quando il popolo di Israele si metteva e viveva un tempo di preghiera, quello non era solo un tempo dove fare delle richieste a Dio e basta. Quello era un tempo dove loro si fermavano e analizzavano e si paragonavano alla santità di Dio e analizzavano: com'è il mio comportamento riferito alla santità di Dio? Come sono le mie azioni rispetto alla santità di Dio? Com'è la mia attitudine rispetto alla santità di Dio? Era un tempo dove loro si appartavano e rimanevano alla presenza di Dio per esaminare se stessi. Ora, avvicinarci a Dio non è spendere 10 minuti del tempo libero nella nostra giornata, perché gli dobbiamo dire tutto l'elenco della spesa, delle cose che lui deve fare per noi, e poi spendiamo 23 ore e 50 minuti del tempo che ci rimane nella nostra giornata come se vivessimo lontano da lui. E alimentiamo tutta quell'amarezza che c'è nel nostro cuore, e alimentiamo tutte quelle persone che ci hanno offeso, e continuiamo ad odiare chi ci ha ferito perché sono brutti e sono cattivi, come Erode, che non lo volevamo, e critichiamo perché se gli altri sono meglio di noi fanno schifo, e se gli altri invece sono peggio di noi, beh, allora ci sentiamo un po' più... E alimentiamo le nostre dipendenze, e mentiamo, e cerchiamo quelle relazioni sbagliate nella nostra vita, viviamo rapporti sessuali al di fuori del matrimonio, fumiamo, giochiamo ai gratta e vinci perché dobbiamo vincere. Non è così. Non è così che noi possiamo impegnarci ad avvicinarci a Dio. Non è questo quello che la Chiesa in questo capitolo ha fatto. Non è questo quello che Giacomo scrive, ma è un tempo per pulire le mie mani e per purificare il mio cuore e rendermi conto come sto correndo, dove sto andando, che attitudine io ho verso gli altri, come mi comporto verso mia moglie, come mi comporto verso mio marito. Tra tutte le azioni che io faccio durante la giornata, quando sono a scuola, quando sono a lavoro, quando sono a casa, quando sono al supermercato, mi aziono per ricercare lo Spirito Santo? Oppure me ne vado in giro come se fossi da solo. Vivo le mie 23 ore e 50 minuti che mi rimangono come se Gesù non fosse con me, come se Lui non fosse vicino. Questa è una bella domanda per noi da porci, perché noi vogliamo impegnarci ad avvicinarci a Dio. Ci lasciamo consolare dallo Spirito Santo, che è il nostro amico. Permettiamo a Lui di consolare il nostro cuore, oppure ci chiudiamo nel nostro dolore, dove neanche noi vogliamo entrare, dove sicuramente Gesù non potrà mai entrare. Prima di portare a termine questa gravidanza che ci ha dato Joy, l'anno scorso abbiamo avuto una gravidanza che si è interrotta. E quando siamo usciti dallo studio della dottoressa, eravamo un po', diciamo, alle pezze, e io ho detto a mia moglie: adesso andiamo a casa e ci avviciniamo a Dio, perché è di Lui che abbiamo bisogno. Ci siamo messi in macchina, abbiamo guidato, abbiamo pianto, siamo arrivati a casa, abbiamo pianto, ci siamo seduti sul divano, abbiamo pianto, abbiamo iniziato a pregare, abbiamo pianto. E quando abbiamo iniziato a pregare, io ho iniziato come inizio sempre le mie preghiere, è venuto in automatico, ho detto: Signore Gesù, grazie. E poi mi sono fermato, ho detto: ah, grazie, ok. Sai quei 3 secondi nel tuo cervello che durano un'ora, dove hai fatto tutti i ragionamenti, te li sei date tutte le spiegazioni, e poi hai detto: grazie perché tu sei con noi. Grazie perché tu conosci il nostro cuore. Tu conosci il nostro dolore. Grazie perché noi non siamo soli. Grazie perché tu sei vicino. Sapete cosa ho imparato? Che quando mi avvicino a Gesù, realizzo che Lui è più vicino di quello che io potessi pensare, immaginare e credere. Lui è sempre vicino a me. Lui è davanti a me, Lui è dietro di me. Lui, Davide dice, sa quando mi siedo, sa quando mi alzo, conosce da lontano il mio pensiero, scruta a fondo tutte le mie vie. Sa quando cammino, sa quando riposo, mi circonda, mi sta alle spalle, pone la sua mano su di me. Quando Gesù è vicino, quando io so che Gesù è vicino a me, perché Lui è sempre, a prescindere da quello che io dico o faccio, quando io so che Lui è vicino a me, tutte quelle cose che possono vincere il mio cuore perdono, perché Gesù ha vinto il mio cuore. E l'unica cosa che io voglio non sono tutte quelle cose, ma è Lui. E io ho capito che lontano da Lui sono perso. È frustrante, perché io pensavo di potercela fare. Pensavo che da solo, in un qualche modo, potevo riuscirci. E invece no. Io ho disperatamente bisogno di avvicinarmi a Lui, altrimenti corro il rischio di perdermi. Noi corriamo per conquistare nuovi territori, impegnandoci ad avvicinarci a Dio. Obiettivo numero due per te questa mattina, impegnandoci a confessare fede. Quando siamo ripieni di Spirito Santo, noi confessiamo fede. Quando la parola di Dio abita nel nostro cuore, quello che esce dal nostro cuore è la parola di Dio. Anche Gesù l'ha detto, lo ha scritto, lo ha detto nel Vangelo di Luca. L'uomo dal buono tesoro del suo cuore tira fuori il bene e l'uomo malvagio dal tesoro tira fuori il male, perché dall'abbondanza del cuore parla la sua bocca. Non permettere al male che puoi aver ricevuto di radicarsi dentro di te. Non permettere. La Chiesa, Pietro, non hanno permesso che il male ricevuto si radicasse dentro di loro. Ma vinci il male con il bene. Paolo lo dice a noi, agli italiani, ai romani, vinci il male con il bene. Tu puoi non diventare quell'uomo malvagio che ha custodito nel suo cuore quel male che gli è stato fatto, dal quale tira fuori il male che ha dentro. Tu puoi impegnarti a confessare fede. Ce la puoi fare. Quali parole parli? Questa è una domanda che io mi faccio. Antonio, quali parole parli? Parla parole dalla parola. Sono tutte scritte qui. Parla parole dalla parola. Sai perché? Perché saranno quelle parole dalla parola che vinceranno il male e ti porteranno a vedere il bene. Saranno quelle parole dalla parola che ti porteranno a riconoscere che tutto coopera al bene per coloro che amano Dio, Romani 8:28, i quali sono chiamati secondo il suo disegno. Vaglielo a dire a Giacomo, bel disegno, morire di spada, ah, tanti auguri. L'aspirazione che ogni ministro e che tutti noi vorremmo oggi, morire di spada per la predicazione del Vangelo, bel disegno. Vaglielo a dire a Pietro, incatenato a tutte e due le mani, legato a due guardie. Vogliela dire alla Chiesa, perseguitata, vogliela dire a loro, anzi no, la Chiesa lo sapeva. La Chiesa lo sapeva, perché lo abbiamo letto. Fervide preghiere erano fatte a Dio. La Chiesa lo sapeva e aveva scelto non solo di avvicinarsi a Dio, ma aveva scelto di impegnarsi a confessare fede, perché il loro pregare insieme avrebbe trasformato la realtà che li circondava. Vogliela dire a Pietro, che il giorno dopo doveva morire e stava lì legato in prigione. Che cosa sta facendo Pietro? Nella notte che precedeva il giorno in cui Erode voleva farlo comparire, Pietro stava dormendo. Io non so se voi siete mai stati incarcerati, storia vera, io sì. Quando non mi hanno voluto rinnovare il visto e mi hanno portato in un centro di detenzionamento per due notti, io non ho dormito. E io dormo anche se esplode una bomba nucleare sotto il bancone di casa. Perché io dormo in piedi, seduto, sdraiato. Quelle due notti io non ho dormito e non ero legato alle mani, non avevo due guardie, ero più o meno in una situazione decente. Io non ho dormito. Io non so come Pietro abbia fatto a dormire, sapendo che il giorno dopo doveva morire. Forse aveva imparato a confessare fede per la sua vita. O la parola di Dio, questa qui, è vivente e vive nelle nostre vite, nelle nostre circostanze, nelle nostre situazioni, a prescindere da dove ti trovi, a prescindere da cosa accade, a prescindere da quando accade, oppure ci stiamo prendendo in giro. Lo so che sto dicendo una cosa forte, ma è così. E tante volte c'è così facile avere quella parola giusta da dare alle persone, agli altri, quando stanno male, sappiamo sempre che cosa dobbiamo dire. Piuttosto che confessare quella parola di Dio da dire a noi stessi per costruire la fede nella circostanza in cui ci troviamo dentro di noi per permetterci di correre quella corsa e conquistare quel nuovo territorio che è davanti a noi. Mi fa arrabbiare questa cosa. Nelle situazioni negative parla parole dalla parola. Non aspettare che la situazione cambi, cambia le tue parole con la parola. Perché due sono le opzioni in cui tu ti ritroverai. Opzione numero uno, la parola cambierà la situazione. Opzione numero due, la parola cambierà te. E io ti posso assicurare, cioè per me, io parlo per me, 50% delle volte che io mi impegno a confessare la fede sono io che devo cambiare. La situazione non cambia. Da quella prigione io sono uscito solo per ritornare qui. Non mi hanno fatto entrare. Io e la mia famiglia, nella mia famiglia, noi abbiamo deciso di impegnarci a confessare fede. A confessare e a parlarci le parole della parola. Questo vuol dire che io e Simona non alziamo mai la nostra voce l'uno verso con l'altro. Questo vuol dire che noi scegliamo sempre di rispettarci con le nostre parole, di dirci parole di amore, di dirci parole che non ci feriscano e di dirci parole che non distruggano quello che l'uno è per l'altro. Che cosa significa questo? Che mia moglie è sempre tutto quello che voglio io, quando voglio io e come voglio io? No. Mia moglie Simona è molto di più di tutto questo. È molto di più di tutto questo. E quando io parlo le parole della parola, quella parola mi porta a cambiare, mi porta a riconoscere il valore che lei è per la mia vita, mi porta a riconoscere la benedizione che lei è per la mia famiglia. E io lo so che tu dirai, vabbè, sono 2 anni che sei sposato, è facile, arriva 10 anni e ne riparliamo. Ok, riparliamone tra 10 anni. Se io continuerò a scegliere di impegnarmi a confessare fede, tra 10 anni quello che io ti dirò sarà meglio di quello che ti dico oggi. Perché Dio è vero, Dio è vivo e Lui vive. Terzo punto, noi corriamo per conquistare nuovi territori impegnandoci a lasciare prontamente le reti. Da quando Pietro ha scelto di lasciare quelle reti per seguire Gesù, lui ha imparato a lasciare se stesso. Non era più quel Pietro che recideva l'orecchio della guardia che voleva arrestare Gesù. Aveva imparato a lasciare la sua indipendenza, aveva imparato a lasciare la sua impulsività, il suo voler decidere per la sua vita da solo. Si era lasciato incatenare a tutte e due le braccia, si era lasciato legare ai soldati e stava in prigione, stava dormendo. Lo Spirito Santo aveva fatto un ottimo lavoro dentro di lui. E questo mi dà speranza, perché lo Spirito Santo può fare un ottimo lavoro anche dentro di me. Lo Spirito Santo può fare un ottimo lavoro anche dentro di te. Come stai messo? Lasciati alle tue spalle e corri in avanti. Lasciati alle tue spalle. Rinuncia a te stesso. Di questo stiamo parlando. Perché nuovi territori da conquistare ti attendono e sono lì. E se tu non ti impegni a lasciare andare quelle reti alle quali vuoi sempre stare aggrappato, continuerai a pescare nello stesso mare gli stessi pesci fino alla fine della tua vita. Questo è quello che Gesù mi ha detto. E siccome io sono generoso, lo voglio condividere con voi. E Gesù ce l'ha detto, Marco 8, che a metà sé la folla e i suoi discepoli disse loro, se uno vuole venire dietro a me, rinunci a se stesso, prenda la sua croce e mi segua, perché chi vorrà salvare la propria vita la perderà, ma chi perderà la propria vita per amore mio e del Vangelo la salverà. Che giova all'uomo guadagnare il mondo intero se poi perde l'anima sua? Che cosa darà in cambio della sua anima? Che cosa daremo noi in cambio di queste reti che ci vogliamo tenere strette? Lasciamole andare, lasciale andare. C'è un sacrificio da fare. E quel sacrificio sei tu. Questa è la bella notizia di questa mattina. Lo so che era quella che tu ti stavi aspettando entrando da quella porta. Gesù fa ogni cosa nuova e Lui ti vuole fare nuovo nuovo. Lui ti vuole fare nuovo, a me mi combina nuovo nuovo. Non ho tempo per raccontarti tutte le cose in cui Lui mi ha combinato nuovo nuovo. Giacomo era morto, Pietro era in prigione, Erode era trionfante. Sai come si conclude la storia? Che Erode è morto, che Pietro è libero e che la parola di Dio è trionfante. Perché quando la Chiesa prega in unità, la causa di Cristo avanza e i nemici vengono sconfitti. Questa è la verità. E io sono così grato a Dio di questo passaggio che abbiamo letto, perché ci dà una visione chiara e realistica della vittoria del Vangelo. La vittoria del Vangelo, il fine ultimo per cui noi siamo qui questa mattina, non esenta la Chiesa dalla sofferenza e dal martirio. E la sofferenza e il martirio della Chiesa non sono un ostacolo alla vittoria del Vangelo, perché il Vangelo vincerà comunque. Perché la parola di Dio trionfa sempre, perché Gesù è inarrestabile. E prima noi comprendiamo questo, e prima noi lo facciamo nostro, e prima noi conquisteremo quei territori. Questa è la verità. Quando noi ci impegniamo ad avvicinarci a Dio, quando noi ci impegniamo a confessare tutte le parole dalla Sua parola, quando noi ci impegniamo a lasciare andare noi stessi, ad arrendere noi stessi allo Spirito Santo, allora noi corriamo conquistando nuovi territori e sperimentiamo che il nostro Dio è un Dio di vittoria, sempre e comunque. Amen. Ci alziamo in piedi. A volte quando Gesù ci parla lo fa perché Lui sa quello che ci aspetta e Lui vuole così disperatamente portarti a conquistare quel territorio che non riesci a vedere e che non riesci a conquistare. Lui così tanto vuole farlo. Preghiamo. Signore Gesù, grazie. Noi possiamo solo e sempre ringraziarti. Grazie per la Tua parola, perché è viva, perché è vivente. Grazie, Signore Gesù, perché noi non siamo soli, ma Tu sei vicino a noi sempre. Io prego che questa mattina i nostri occhi possano aprirsi a riconoscerlo. Grazie, Signore Gesù, perché ci hai dato la Tua parola, che è una lampada per il nostro piede ed è una luce sul nostro sentiero. E noi questa mattina vogliamo arrenderci. Vogliamo arrendere noi stessi alla Tua parola, a quella luce che la Tua parola è nelle nostre tenebre. E Ti ringraziamo per come Tu vuoi purificare il nostro cuore. Ti ringraziamo per come Tu vuoi lavare le nostre mani. Non ha importanza quante volte veniamo davanti a Te, Tu vuoi purificare il nostro cuore. Signore Gesù, che le parole che stiamo per cantare, che possano essere la confessione del nostro cuore, che possiamo riconoscere il peso della Tua parola nella nostra vita, così come lo cantiamo adorandoti. Grazie Gesù. Amen.